nel mondo, 235esima trasmissione dedicata agli emigrati. Il patrimonio delle tradizioni. Promosso e organizzato dall'assessorato regionale alle attività sportive e ricreative, si è svolto recentemente a Udine, nel salone dell'antico Parlamento friulano in Castello, un convegno dei gruppi corali, folcloristici e bandistici della regione, allo scopo di esaminare i problemi e le prospettive di sviluppo di tali gruppi, strumenti importantissimi di educazione e di ricreazione. Dalle interessanti relazioni presentate al convegno da esperti e studiosi del folklore e dagli interventi di numerosi presenti, è emersa la necessità di tutelare e di potenziare il patrimonio ricchissimo della nostra tradizione, anche se l'interpretazione del passato contempli una certa adesione alla realtà presente, pur mantenendo intatta la vitalità originaria. A siffatto richiamo interpretativo si ispira oggi la corale Tita Birhebner di Tapogliano e di Nogaredo al Torre, diretta dal maestro Giovanni Famea, nel presentarvi, cari amici emigrati, un saggio di vecchi motivi popolari carnici nella trascrizione di Claudio Noliani. Ascoltate come inizio la vivace e briosa E Iopile Iopile. Il soggetto delle nozze ricorre frequentemente nel canto popolare friulano a ispirazione or triste, or lieta, or scherzosa nella vasta produzione di anonimi compositori, come in questo breve invito, e fur fur novicie. Eccovi ora una delle tante delicate ninne nanne fiorite nel tempo attorno alle culle della Carnia. Nanà, nanà, pupin. ed una soave invocazione alla Vergine è questa confidenziale preghiera, o Mari graziosissime. E perché preoccuparci tanto di quel che dice la gente se tanta voglia noi abbiamo di cantare? Sembra intendano dire le forosette in questo canto birichino. Ce diran chei che nos sintin? Richiamo all'attività artigianale che un tempo fioriva a Cella di Ovaro, si può rilevare in questa cantata. Vuela a Cella io. Vuela a Cella io, a Pasra nelle io, vuela ne casa fa modo io. Vuela a Cella io, a Pasra nelle io, vuela ne casa fa modo. Concludiamo la breve rassegna con il bisticcio a lieto fine tra Martin e Mariana. Mariana. piel, Marianna, corpo di vin, un piel c'ha piel, sangue di vin, un piel c'ha piel, Marianna. E a tu spin tu, Martin, corpo di vin, e a tu spin tu, sangue di vin, e a tu spin tu, Martin. Cinque e tre bot, Marianna, corpo di vin, cinque e tre bot, sangue di vin, cinque e tre bot, Marianna. Marianna, corpo di vin, soi paron io, sangue di vin, soi paron io, Marianna. I frustan san Martin, corpo di vin, i frustan san, sangue di vin, i frustan san, Martin. Polenta e ciut, Marianna, corpo di vin, polenta e ciut, sangue di vin, polenta e ciut, Marianna. Marianna, corpo di vin, io ti doi doi, sangue di vin, io ti doi doi, Marianna. Fasin la fa, Martin, corpo di vin, fasin la fa, sangue di vin, fasin la fa, Martin. Fasin un ballet, Marianna, corpo di vin, fasin un ballet, sangue di vin, fasin un ballet, Marianna. La la la la la. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.